tornando sempre al problema della dirigenza sportiva, c'è anche da dire che tutto si regge su un grande equivoco. Questi signori non sanno forse neanche loro esattamente il mestiere che fanno, e parlo in particolare dei dirigenti dei comitati olimpici, proprio perché le Olimpiadi ormai non hanno più ragione di essere e sono diventati un sottoprodotto dell'industria della menzogna, che potremmo chiamare industria dell'ipocrisia, dato che lo spirito olimpico non esiste più. Gli stessi giochi olimpici forse non hanno ragione di esistere, perché le manifestazioni professionistiche hanno nettamente preso il sopravvento. Lo sport è una grande macchina da soldi che vende il brand, diciamo così, della forza applicata poi anche alle emozioni che è ancora capace di trasmettere in qualche misura. Però le Olimpiadi, che vendevano un altro tipo di brand, appunto quello dell'ideale olimpico, si ritrovano completamente spiazzate e si sentono quasi un pesante doppione rispetto al, per esempio, alle competizioni iridate. E qui ci vorrebbe una certa managerialità per salvaguardare il valore, diciamo, di questo brand, che chiaramente non possono avere i personaggi di cui parlo anche nel podcast precedente, che sono capaci soltanto di scatenare risse e soprattutto di interferire col fatto sportivo. Cioè, questo è il loro ruolo, le loro carriere sono premiate in virtù della loro capacità di incidere sullo sport al di là delle regole sportive. Pensiamo al modo in cui, per esempio, i nostri dirigenti sono stati messi sulle poltrone che conosciamo, proprio per la loro capacità di garantire un risultato sportivo che fosse comodo per l'industria dello sport e non certo che fosse quello risultante dal rispetto delle regole. Pensiamo, per esempio, che so, alle interferenze con la politica, senza andare a parlare del caso italiano, però prendiamo per esempio quello che è successo in Corea. Esisteva un preciso progetto, che era quello di portare la Corea del Sud alle semifinali dei campionati del mondo disputati in casa, perché altrimenti sarebbe stato un flop economico. Chiaramente tutte le nazionali che la Corea del Sud si è trovata ad affrontare sono state danneggiate, non parlo tanto di quella italiana, ma per esempio quella spagnola, con lo scanso di equivoci circa nazionalismi che non caratterizzano certo chi vi parla. Poi la cosa affascinante è che, dopo essere arrivata in questo modo in semifinale, il vicepresidente della federazione coreana è stato promosso all'interno sia della federazione internazionale sia poi in ambito politico, diciamo, perché si è potuto candidare addirittura per le presidenziali del suo paese, che poi credo abbia perso, però questo non conta. L'importante è notare come lo sport venga utilizzato per fini laterali, diciamo. Ma se vediamo anche il modo in cui i nostri personaggi, pensiamo adesso, mi vengono in mente i vari Pescante e compagnia, come dirigenti si sono segnalati soltanto per le risse che erano in grado di scatenare. E qui torniamo ancora una volta in Corea, alle Olimpiadi di Seul. Ricorderete le polemiche circa i giudici delle competizioni pugilistiche. Al termine dei combattimenti regolari c'erano dei combattimenti tra dirigenti, che si svolgevano sotto le telecamere di tutto il mondo, combattimenti che videro tra i loro protagonisti i nostri dirigenti, che poi magari non avranno permesso ai nostri pugili di ottenere medaglie nelle gare successive, ma indubbiamente li hanno posti al centro dell'attenzione e hanno quindi proseguito nel fare carriera. Quindi la tracotanza, che è l'esatto contrario dell'ideale olimpico, è diventato il metro positivo di giudizio delle varie carriere dirigenziali in ambito sportivo.